Globetrotter 24 di Annarita D'Ambrosio e Valeria De Rosa. Ben ritrovati, puntata dedicata alla Spagna, due segnalazioni, le segnalazioni di due città. Valeria, direi di cominciare con te, dove mi porti? Anna, questa volta ho scelto Siviglia, ti porterò però anche a Granada. Io sono stata più volte nella parte meridionale della Spagna ed è proprio dove ti porto, dove ti accompagno ora. Ti porto nel sud del paese, dove la Spagna si divide tra il Mediterraneo e l'Oceano Atlantico, anche se dalle città che toccheremo il mare non si vede. Siviglia, Granada e, se avete tempo, fate un salto anche a Cordova perché ne vale davvero la pena. Cominciamo da Siviglia, che è il capoluogo della comunità autonoma dell'Andalusia. Il fiume che la costeggia è il Guadalquivir, perfettamente integrato con la città. Una città che si gira molto bene a piedi, almeno per quanto riguarda il centro. È una città giovane, allegra, perché è sede dell'università. Università che tra l'altro ha una struttura molto particolare, perché l'edificio una volta era la Reale Fabbrica di Tabacco ed era stata concepita come una piccola cittadella, quindi c'era una zona industriale, una zona residenziale, un fosso che la circondava e il ponte levatoio. E ci sono moltissimi giardini anche intorno all'università. Di per sé e già da sola Siviglia varrebbe la pena. È stata influenzata da moltissime culture, l'impronta araba ovviamente è ovunque. Parto però dalla storia più recente. Nel 92, in occasione di Expo, sono stati costruiti molti edifici moderni che hanno prima ospitato le installazioni e poi sono stati riconvertiti e sono stati costruiti nella zona a sud del fiume, quindi sull'altra sponda. Ma soprattutto è stata costruita la nuova stazione ferroviaria ed è stata inaugurata la tratta dell'alta velocità per Madrid. Io penso che Siviglia possa essere girata senza una guida alla mano, nel senso che è talmente bella e ha dimensioni che consentono di girovagare e lasciarsi portare dalla curiosità e da quello che colpisce gli occhi di chi la osserva. Per esempio, non potete non vedere la Giralda. Oltre 100 metri di altezza per questo antico minareto della moschea, poi diventato la torre campanaria della cattedrale. La cattedrale stessa di Siviglia è un autentico spettacolo. È la più grande di Spagna ed è la terza del mondo cristiano dopo San Pietro e St. Paul a Londra. Costruita verso la fine del XIV secolo, è gotica ma senza la severità del gotico più rigido, con vetrate lavorate che, se attraversate dal sole, riflettono all'interno i colori. Da non perdere anche il giardino all'esterno. Poco distante ci sono le fortezze reali. Oltre alle sale, che ovviamente sono bellissime, le stanze, i cortili dei palazzi, ci sono anche dei giardini, anche in questo caso magnifici, che sono un altro esempio dell'arte in cui gli andalusi sono dei maestri. Voglio segnalarti ancora due cose a Siviglia, Anna. Prima di tutto l'arena della Real Maestranza, che dopo quella della Ronda è la più antica del mondo e ha ospitato i più grandi toreri. Te ne parlo perché nel momento in cui sono stata a Siviglia era molto forte la polemica sulle corride, se abolirle o meno, e quindi diciamo c'era molta attenzione attorno a questo tema. Un'altra cosa che voglio segnalarti, Anna, è la Plaza de España, costruita nel 1929 quando fu organizzata l'esposizione iberoamericana. Secondo me non è la parte migliore della città, però merita, se non altro per l'imponenza. Quindi diciamo che una camminata, una passeggiata all'interno della Plaza de España comunque merita. Ora, a Siviglia ci si deve andare, secondo me, anche per uscire la sera, cioè per godersi dal tramonto fino a sera inoltrata tutta la vita notturna, perché è una città, come ti ho detto, molto giovane ed è anche quindi piena di locali che la sera si riempiono e dove è facile anche assistere a spettacoli di flamenco. Molto belli anche perché molto spesso sono molto raccolti, quindi c'è la possibilità proprio di avere un contatto diretto. Magari vi potete accompagnare con un buon piatto di prosciutto spagnolo e un bicchiere di vino. A Siviglia si arriva in aereo, Ryanair vola diretta da Milano, ma vola su Siviglia anche la Vueling e Liberia. E poi c'è sempre la possibilità di arrivare a Madrid e poi prendere un treno ad alta velocità. Se potete, affittate una macchina, perché da Siviglia non si può non andare a Granada. Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano quando es. Ecco Anna, io aspettavo questo momento solo per lasciare in sottofondo questa canzone, in questo caso eseguita da José Carreras. Vale la pena di andare a Granada anche solo per l'Alhambra. Che cos'è l'Alhambra? È un complesso che sorge su una collina, patrimonio dell'umanità, fu palazzo, cittadella, fortezza, residenza di sultani, di alti funzionari, servitori della corte e soldati d'élite. Attualmente è un monumento nel quale si distinguono quattro zone: i palazzi, la zona militare o Alcazaba, la città o Medina e la zona agraria. Tutto questo circondato da boschi, giardini e terreni. Io, francamente, Anna, non so se sia possibile descrivere la bellezza di questo posto, la meraviglia che suscitano le stanze, i chiostri, le vasche, le fontane, però posso dirvi che nei mesi estivi la coda è assicurata, quindi conviene fare i biglietti online e saltare la fila. Se poi potete scegliere, evitate agosto perché è un mese caldissimo. Oppure prenotate per un ingresso o molto presto al mattino o il più tardi possibile al pomeriggio. A mio avviso, in questo caso vale la pena prendere una guida perché le trasformazioni sono state davvero tante e chi vi seguirà vi aiuterà a capire qual è stato il percorso e l'evoluzione. Granada, come Siviglia, non è molto economica. Sono città turistiche e diciamo che andando lì io non punterei molto sul cibo, a meno che non scegliete ristoranti medio-alti. In ogni caso, anche a Granada, e non me ne vogliano vegetariani e vegani, hanno un prosciutto spettacolare. Un aperitivo, secondo me, è meglio di una cena, se poi consumato ai piedi dell'Alhambra diventa davvero speciale. Cosa ho dimenticato di dirvi su Granada? Che comunque si trova ai piedi delle montagne della Sierra, del Parco Naturale della Sierra Nevada, è una meta anche di sciatori, ci sono chilometri e chilometri di piste e impianti per la risalita. Se siete in macchina, ma anche se vi spostate in treno e avete anche solo meno di una giornata a disposizione, andate anche a Cordova. La moschea cattedrale è il simbolo di questa città, ma sarà all'interno la vera sorpresa. Perché? Perché appena entrati vi troverete in mezzo a 19 navate, 856 colonne con capitelli tutti diversi e sulle colonne si appoggiano doppie arcate in mattoni e pietra bianca. È davvero uno spettacolo unico. Uscendo dalla cattedrale potrete seguire i vicoli stretti che costeggiano la cattedrale, che sono imbiancati a calce e che ricordano un po' le città di mare del sud, anche se poi da qui, come dicevamo all'inizio, il mare non si vede. Se riuscite, buttate un occhio a tutti i cortili interni che riservano sempre delle sorprese in Spagna. Delle tre città, forse Cordoba è la più attrezzata per i bambini. A questo proposito mi permetto di segnalare anche un sito, turismodecordoba.org, che è tutto in spagnolo, ma comunque è di facilissima consultazione. Ha una sezione dedicata proprio al turismo familiare e per i piccoli c'è di tutto. C'è lo zoo, il parco acquatico, il centro equestre, la possibilità di noleggiare biciclette, il parco al coperto per andare sui pattini e i percorsi da fare a piedi pensati proprio per i bambini, con o senza guida. Thank you. Valeria, io ci sono stata ma tanti anni fa e quindi mi hai fatto rivivere queste sensazioni, grazie ancora, ma adesso dovrai tu ringraziare me perché ti darò l'opportunità di sapere dal nostro Salvatore Carrubba quali sono i libri che ci consiglia per la tua destinazione ma anche per la mia, che ti anticipo sarà Santander. Su Santander vi segnalo che c'è un grande scrittore spagnolo, si chiama José María de Pereda, che era nato lì nel 1906 e fu l'ultimo di 22 figli, appartenente a una famiglia conservatrice. Lui stesso fu anche politico conservatore, fu un autore molto popolare in Spagna ai suoi tempi. E per capire quella Spagna e quell'ambiente, su Kindle troviamo Al primo volo, un libro del 1891 che è una saga familiare sull'illusione di poter isolare i figli dal corrotto ambiente circostante. Invece a Siviglia possiamo leggere La pelle del tamburo di un scrittore molto popolare, Arturo Pérez Reverte, un libro questo del 1998 pubblicato in Italia da NET, nuova edizione tascabile, oppure L'oro del re, pubblicato da Tropea, che mette in azione a Siviglia nel 1626 il capitano Alatriste, uno dei grandi personaggi di Pérez Reverte. E poi vi segnalo, perché è questa è proprio legata a Siviglia, la trilogia di Beaumarchais, Il barbiere di Siviglia e La moda colpevole, che ha il suo capolavoro poi in una commedia scintillante dalla quale Mozart ricavò Le nozze di Figaro, e cioè La folle giornata, Il matrimonio di Figaro, curato da Valerio Magrelli per Einaudi. Anna, come abbiamo sentito, non solo i consigli per quanto riguarda i libri da leggere, ma anche gli autori. Salvatore in questo ci aiuta sempre. Adesso ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo con Santander. Globetrotter 24. E allora eccoci di nuovo qui. Valeria, come ti anticipavo, ti porterò a Santander. Ci sono stata da poco, è una Spagna del nord, è una Spagna assolutamente insolita. A Santander c'è un festival musicale ogni estate, questa è la musica del festival dello scorso anno, l'appuntamento è agli inizi di agosto e la città cantabrica si riempie di giovani. Appena arrivi a Santander, quello che ti colpisce subito sono le verande degli edifici sul mare, e questo perché? Perché la città, mi hanno spiegato, è fortemente influenzata dai venti dell'Oceano Atlantico che si scontrano contro le montagne della cordigliera cantabrica. È una città molto giovane, perché sede non solo dell'Universidad de Cantabria, ma c'è anche l'Universidad Internacional Menéndez Pelayo, detta Università del Verano, dell'estate, perché la sua attività è rivolta agli stranieri con corsi di lingua spagnola e quindi si svolge sostanzialmente nei mesi estivi. È una moderna città industriale, un importante porto naturale in un'insenatura profonda del Golfo di Biscaglia, appunto la baia di Santander. Ha delle belle spiagge, quelle atlantiche, quindi molto profonde, molto riparate però, quindi non sembra nemmeno di essere sull'oceano. Come arrivarci, Valeria? Beh, l'aeroporto di Santander ha voli sia dell'Iberia, sia della Ryanair, della Vueling e di Volotea. Da visitare c'è davvero tanto. Oltre al Palazzo Reale della Magdalena, diversi sono i monumenti notevoli. Ti colpisce appena arrivi sul lungomare il Palacio de Festivales de Cantabria, che è un edificio di recente costruzione creato per ospitare i festival di Santander. El Sardinero, che è un quartiere creato alla fine dell'Ottocento con delle infrastrutture turistiche di tutti i tipi, dagli alberghi ai caffè, è molto frequentato, un quartiere molto vivace, pace, diviso in due tratti da terrazze con un lungomare coperto e una biblioteca. Santander però è anche una delle tappe del Cammino di Santiago ed ha una bella cattedrale di stile gotico da visitare. La cattedrale si trova su una piccola altura e quasi interamente rifatta a seguito dell'incendio che nel 1941 distrusse varie parti della città e distrusse quasi tutto il lungomare. Valeria, tu lo sai, io sono particolarmente curiosa, quindi mi sono un po' documentata su questo incendio del 1941. Avvenne la mattina all'alba tra il 15 e il 16 febbraio. Restano ancora oggi poco chiare le cause. Una cosa è certa: a causa del forte vento, l'incendio si sviluppò rapidamente e distrusse praticamente tutto il lungomare della città, che aveva edifici di legno. Nei giardini di Pereda, che sono proprio il cuore di Santander, ci sono monumenti e fotografie che ricordano quel terribile incendio. Nei giardini, quello che colpisce di più però è il centro Botin, il centro destinato all'attività culturale e creativa. L'edificio sul mare non è ancora concluso, anzi la conclusione dei lavori è un po' un mistero. L'opera parla italiano, Valeria, perché è stata disegnata e realizzata dallo studio di architettura di Renzo Piano. Renzo Piano, quando gli chiesero ma quando aprirà il centro Botin a Santander, disse sibillinamente: apriremo quando gli alberi avranno le foglie. L'apertura era prevista 2 anni fa, non è ancora avvenuta, dovrebbe avvenire proprio quest'anno, dovrebbe essere imminente. Io ho visitato Santander lo scorso maggio, fine maggio, e i lavori erano quasi ultimati. Pensa che si sa già quale mostra sarà la mostra inaugurale del centro, quella dell'artista belga Karsten Holler. Il centro è costato 80 milioni di euro, è il più ingente investimento a favore della cultura mai effettuato da un'istituzione privata in Spagna. Il palazzo è decisamente suggestivo, è sospeso tra luce e acqua, ad un passo dal molo d'imbarco per l'Inghilterra, è composto da 2 fabbricati non lineari, le facciate fronte baia sono in vetro, la trama leggera di una passerella congiunge i 2 edifici, uno per le arti plastiche, l'altro per danza, musica e teatro, con un auditorium, con i piedi in parte in acqua e in parte sulla terraferma. Così Renzo Piano ha spiegato l'edificio, aggiungendo che il centro è rivestito da 280.000 formelle di ceramica madreperlacea affidate alla stessa fabbrica che aveva lavorato per Gaudì. Dal punto di vista urbanistico, il progetto vuole riunire la città all'acqua, ma l'intento poetico ha anche a che fare con la luce, perché Santander ha un lato aperto con rocce, onde lunghe, vento da nord, e anche un côté interno in cui la luce invece sembra diventare quasi lagunare. Un'altra curiosità, un'altra cosa che mi ha colpito particolarmente di Santander è che ti dicevo che esiste un traghetto che parte da Santander, arriva in Inghilterra, arriva a Plymouth e Portsmouth e collega la Spagna con l'Inghilterra. Esiste una sola compagnia di navigazione che opera questo servizio, la Brittany Ferries. La corsa viene effettuata una volta alla settimana. Ad agosto il servizio costa circa 650 euro, ad ottobre però si possono pagare anche 400 euro. Chi fa questo percorso, che è ovviamente molto lungo, lo fa chi ha necessità, per esempio, di portare dalla Spagna all'Inghilterra la propria autovettura. Anche molti portoghesi utilizzano questa opportunità, perché la Spagna del Nord è appunto vicina al Portogallo. Il porto di Santander trasporta circa 150.000 passeggeri ogni anno a Plymouth e Portsmouth nel Regno Unito, anche molti portoghesi che si servono di questo servizio. Il tempo di percorrenza per Portsmouth è di circa 24 ore e per Plymouth 20 ore. I costi, Valeria, Santander è molto economica, come molti posti in Spagna. Per intenderci, si trovano anche alberghi da 40 euro a notte, anche in centro, e anche molto dignitosi e puliti. Economici i ristoranti, quelli eleganti non costano più di 40 euro a persona. Se deciderai di visitare Santander con tuo figlio, allora ti consiglio di portarlo allo zoo di Cabarseno. Per famiglie con bambini piccoli è qualcosa di meraviglioso da visitare e soprattutto è molto bello per la varietà di animali che ci sono. Gli animali sono tutti in libertà. Un altro posto che ti segnalo, sempre per le visite con i bimbi, è il trenino che si trova all'ingresso del sito reale di Magdalena. Il treno corre in tutta la proprietà per circa 15 minuti attraverso il parco, il Palazzo della Magdalena, il museo e poi termina nel mini zoo della Magdalena. È un percorso che costa anche pochissimo, 2 euro per gli adulti e 1,35 euro per i bambini. Le ultime segnalazioni, Valeria, non so di quanti giorni tu potrai disporre per visitare Santander, ma magari riuscirai a noleggiare un'auto e a spostarti. E allora io ti consiglio di visitare, a circa 60 km da Santander, Comillas, che è un posto assolutamente straordinario. In primis ha una bellissima spiaggia cittadina, ma soprattutto qui a Comillas puoi visitare l'unica opera di Gaudí fuori dalla Catalogna. Si chiama Il Capriccio ed è un palazzo arabeggiante su cui spicca una torre coloratissima decorata da girasoli di ceramica. I bambini erano impazziti, all'interno c'è il solito negozio di souvenir e ci ho visto veramente tanti bambini, tutti entusiasti. Meritano particolare attenzione anche le vetrate che raffigurano soggetti legati alla musica e alla natura. Il proprietario della villa era un avvocato che amava appunto la musica e gli animali. Anna, io la Spagna non la conosco moltissimo, lo devo ammettere, e devo dire che mi hai fatto nascere dentro una gran curiosità per la Spagna del Nord. Adesso però lo spazio va al nostro gastronauta Davide Paolini per i consigli e i suggerimenti su cosa mangiare e cosa bere in Spagna. La battuta è: in Spagna se magna, come si dice, quindi sicuramente c'è grande varietà, perché c'è stato un momento, diciamo, tradizionale della Spagna che non si era messa molto in rilievo, poi c'è stata una grande rivoluzione, ma io credo quello che segna la Spagna e sono la portata di tutto sono le tapas. Le tapas sono dei bocadillo, quindi dei bocconcini che si possono mangiare un po' ovunque. Ci sono dei bocconcini molto evoluti, come a Barcellona ci sono due notissime tapas, una si chiama Inopia e l'altra si chiama Tickets, che fanno capo addirittura al fratello del grande Ferran Adrià. Ma sempre a Barcellona io quello che consiglio è andare al mercato della Buqueria, dove c'è un posto dove si mangia che si chiama Pinoxo, che veramente si mangiano le cose del mercato, e lì forse si vede la Spagna più tradizionale, più vera, perché si mangia quello che si vede attorno, quindi il pesce della pescheria, la frutta della frutteria vicino, il pane di quello che si vende sul mercato. E quindi credo che sia il luogo, il mercato in Spagna sia il luogo indicato, perché esiste anche a Madrid, esiste anche in altre città quindi della Spagna, e le tapas, come dicevo, sono un po' ovunque. Ma cosa si mangia nelle tapas? Nelle tapas si mangiano delle piccole cose, molto si mangia un peperone che chiamano pimentos, ma in fatto è un peperone come un peperone italiano, ma molto più piccolo, molto particolare. Si mangiano dei pescado fritos, di solito i principali sono i ciperones. I ciperones sono dei piccoli calamari fritti che sono veramente molto ma molto buoni. Poi si beve anche molto bene in Spagna, perché c'è la Rioja, c'è tutta un'area del Penedès dove si produce spumante che viene chiamato cava, e quindi si beve altrettanto bene e anche a un buon prezzo. Inoltre, come ultima nota aggiuntiva, con il boom dei cocktail, della mixologia, come viene chiamata ormai in termine moderno, la Spagna è all'avanguardia, e a Barcellona ci sono miriadi di bar dove sono nate le grandi mode, a cominciare da questa diffusa del gin tonic, e c'è un posto particolare che si chiama Boca Grande, dove si bevono i migliori gin tonic, credo, di tutto il paese, forse anche del mondo. E in questo momento sta crescendo la moda del vermouth. E un altro posto che io indico a Barcellona si chiama Vermou. Valeria, una gran fame. Davide ha questo potere di darci veramente questa voglia di mangiare. La sensazione di a qualunque ora della giornata. Adesso però le altre segnalazioni curiose che abbiamo da farvi, sempre in relazione alla Spagna. Se siete in Spagna e passate per Madrid, potreste acquistare deliziosi dolci dalle monache di clausura nel meraviglioso monastero Las Descalzas Reales. La tranquillità di questo monastero, a volte ignorato dagli abitanti dello stesso quartiere, potrebbe aiutarvi a smaltire l'eccesso di birre e tapas. Potreste andare alla Fontana dell'Angelo Caduto nel parco El Retiro. Situato a 666 metri di altitudine, l'Angelo Caduto, insieme con la statua di Lucifero in Italia, è uno dei pochissimi monumenti dedicati al diavolo nel mondo. Esoterismo a parte, il parco del Ritiro è un must. Due consigli. Fate un giro in barca nello stagno e cercate il Palazzo di Cristallo. Se ne avete l'occasione, andate a vedere un musical in Calle Gran Via. Probabilmente l'offerta di commedie musicali a Madrid è la migliore che voi possiate trovare. Non dimenticate di prenotare i biglietti in anticipo. Termina qui anche questo appuntamento con Globetrotter 24 e allora prima di salutarvi vi ricordiamo come vi è possibile inviarci una mail con le segnalazioni, con i suggerimenti. La mail è globetrotter24@radio24.it. Alla prossima puntata!